Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Si è buttato dentro Parolo, anche Marchisio. Arevalo Rios perde il contrasto. Commette fallo Marchisio. E prende anche il giallo. No, rosso! Poi il pallone arriva a Darmian che lo lascia rimbalzare. C'è un contrasto in area, due giocatori a terra. Calcio di punizione per l'Italia. Un morso ancora? Ancora un morso? L'ha morso ancora forse? L'ha morso di nuovo? Pallone ancora verso il centro, salta le tre. L'Uruguay è in vantaggio, ha segnato Godin. Come al solito Godin. Visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni, perché quando un progetto tecnico fallisce è giusto che ci si prenda la responsabilità. Non so cosa è successo in Italia, ma tutto ad un tratto ci siamo trovati di fronte a delle aggressioni verbali. Siamo diventati all'improvviso come un partito politico e noi ci siamo sentiti persone che, secondo questa critica, rubiamo i soldi ai contribuenti. Il nostro presidente sappiamo benissimo che non prende una lira, io non ho mai contrattato il mio contratto, quindi questo è anche un motivo per cui do le dimissioni. Non ho mai rubato i soldi, ho sempre pagato le tasse, vado a testa alta, se ho sbagliato tecnicamente do le dimissioni, ma non mi volevo sentir dire di rubare i soldi ai contribuenti. È finita, abbiamo perso, Prandelli, abbiamo sentito, si è assunto le responsabilità che sono sue e si è dimesso con dignità. La squadra non c'era, era stanca, senza gioco, fine delle illusioni. La droga di Stato questa volta non ha funzionato, l'Italia non può nascondersi dietro l'italietta pallonara. E mentre oggi si gioca una partita super miliardaria sui diritti del calcio in TV tra Sky e Mediaset, partita che avrà il solo effetto di rendere ancora più ricchi i calciatori e più a rischio i bilanci delle società, noi siamo qui a commentare quello che è capitato ieri sera. Oggi è Sara Tardelli, la nostra quota rosa, che è anche opinionista di tutti i convocati, che ci guiderà, e qualche giorno fa a lei il Trap aveva detto questo. L'allenatore nazionale italiana è come un condannato a morte che non sa mai qual è la data della sua esecuzione. Dino Zoff, campione del mondo nell'82 e campione di tutto con la Juventus. Sei d'accordo con quello che ha detto il Trap? Ma relativamente, insomma, ci sono sempre state critiche, ci sono sempre situazioni che vanno a finire con delle sconfitte, con dei cambiamenti. Mi sembra tutto così enfatico, così esagerato. Anche le parole di Prandelli sulle accuse. Cazzo, io sono stato con Verzotta, aveva ricevuto delle accuse altro che queste, insomma. Sì, anche voi giocatori avevate ricevuto molte accuse, no? Ma sì, ma tutto, però insomma mi sembra tutto esagerato. E poi ho capito dalle dichiarazioni perché si è fallito la cosa, perché ho sentito delle accuse tra giocatori. Se questi non erano in campo con la Costa Rica, insomma, non lo so, ecco, ho capito dopo però. Senti, quindi Prandelli ha fatto bene a dimettersi? No, non lo so, io... Al posto suo tu cosa avresti fatto? No, non voglio giudicare quello che fanno gli altri, uno può dimettersi, non dimettersi, eccetera... Mi è sembrato così esagerato la storia dei soldi, delle accuse, eccetera, dei partiti politici, insomma mi sembra un po' ingrandita una cosa che insomma è molto più semplice. È come se lui non avesse, non fosse stato pronto alle pressioni mediatiche che il ruolo del CT insomma deve saper affrontare? Ma questo non lo so, questo però insomma... Capisco anche la delusione, quindi uno magari va oltre a dire delle certe cose, ecco, questo è possibile, quindi sotto questo aspetto magari bisogna capire anche le cose, però insomma tirare fuori i partiti politici contro i soldi della nazionale, mi sembra un po' esagerato. Va bene, Dino. Buffon, e lo stavi dicendo anche tu, ha detto che i giovani non ci hanno messo impegno e volontà e sono sempre invece i senatori a tirare avanti la carretta. Ma sei d'accordo con Buffon? No, io non sono d'accordo su chi dice queste cose, non sono valutazioni che le deve fare l'allenatore. Quando vengono fatte valutazioni in campo, io che sono vecchio del mestiere, se si comincia a dire che è colpa dell'attacco, è colpa della difesa, la difesa dice che è colpa del centrocampo, il centrocampo del portiere, sì. Allora va tutto in vacca. Senti, quindi diciamo che lo spogliatoio forse non era così unito come si dava a vedere. Da queste dichiarazioni finali, insomma, che poi sono dichiarazioni, insomma, pesanti, ecco. Certo, Dino, ma chi vedresti sulla panchina azzurra? No, per carità, contate più voi che un pensiero mio. Vabbè, però insomma prova a darcelo lo stesso. No, non voglio dare niente, assolutamente. Niente, abbottonatissimo questa mattina. No. Senti, passiamo invece agli episodi che secondo alcuni hanno deciso il risultato della partita. L'espulsione di Marchisio, tu che sei uno che sul campo c'è stato tanti anni, ci stava? Ci stava, no, non ci stava, perché probabilmente l'intenzione di Marchisio non era quella di ferire l'avversario come è sembrato, sì, dalla televisione. Ecco, lui probabilmente voleva arpionare la palla, solo che è andato sullo stinco e ha ingannato un po' l'arbitro. Senti, poi incredibile ma vero, Suarez ha pensato che non c'è due senza tre e ha addentato la spalla di Chiellini. Tabarez, il suo allenatore, in merito a questo morsino ha parlato di moralità da quattro soldi. Ma secondo te Suarez deve finire i mondiali con la partita di ieri sera? Ma no, certamente va ripreso, eccetera, quindi è un gesto proprio fuori dal comune, fuori da ogni regola. La terza volta, Anche se lui l'ha già fatto, eccetera, questo è certamente da penalizzare. Dino, ma diciamo la verità, mancavano i campioni in questa squadra? Ma non so quelle. No, io non voglio dare così giudizi. Le cose sono. No, ma questo è un giudizio tecnico, la cosa, un giudizio tecnico, è stato l'errore, secondo me, di una valutazione sproporzionata della vittoria con l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è l'unica squadra e gli unici giocatori che hanno il diritto di essere stanchi, perché vengono da un campionato massacrante, giocano 20 partite più di tutti gli altri, giocano Natale, Pasqua, ultimo dell'anno, eccetera. Certo. Quindi la vittoria sull'Inghilterra andava presa come una buona partita e basta. Dino, la morte di Ciro Esposito, proprio oggi, che messaggio lascia al calcio italiano? Ma lascia... non solo al calcio, là c'è una violenza fuori da ogni canone, ecco, non più neanche la scazzottata, però si è andato oltre, come tutto il resto del mondo, oltre il calcio arriva, insomma, vediamo che la violenza è sempre maggiore in tutti i campi, e purtroppo anche il calcio, che dovrebbe essere una festa, invece non è così. Zoff, per alleggerire, buongiorno, sono Minoli, Zoff, ciao. Per alleggerire un po' ci abbiamo Claudio da Roma che dice: sulla panchina azzurra vogliamo la quota rosa Sara Tardelli. Vabbè, se non è lui il papazzo, ma potremmo essere da quelle parti, sì, però sì. Ci abbiamo Carlo che ci scrive una bella provocazione per chiudere. Caro Minoli, a scanso di equivoci, meglio tutta la vita un cannibale come Suarez che una banda di senza palle. Carlo, che dice? Beh, insomma, adesso si sta esagerando come sempre, ed è logico, anche perché succede a noi quando si parte con la fanfara, non è la prima volta. Grazie Zoff, grazie mille. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Canzone. Il presidente del Consiglio bocca sulla RAI, nel senso di partito, e non ce la mette. Chiedere alla RAI di dare una mano nel momento in cui ci rimbocchiamo tutte le maniche, caro Floris, okay, tocca anche a voi. E mi dispiace, ma tocca anche a voi. Io credo che con il budget totale della RAI sia una cosa assolutamente possibile. L'unica cosa è inserire nei posti giusti una persona onesta. Abbiamo bisogno di queste persone messe lì. È questa la rivoluzione. Poi un onesto si circonda di onestà. Viva la RAI! Luigi Di Servo, presidente dei dirigenti della RAI, promotore di una convention con 100 autorevoli artisti, giornalisti, registi, intellettuali, sportivi, manager, per iniziare a mettere sul tappeto le idee per la nuova RAI. Ecco, soddisfatto del risultato? Molto. Perché? In realtà è stato un evento particolare perché è il primo evento pensato in 100 giorni. Quello che si è disputato ieri è soltanto l'inizio, il momento, l'abbiamo definito, dell'ascolto. Nessuno della RAI ha parlato, abbiamo deciso di far parlare le persone che con la RAI lavorano da anni e abbiamo cercato di raccogliere quelli che erano gli stimoli che venivano dal loro punto di vista. Ecco, quale proposta l'ha colpita di più? In realtà sono tante, potrei partire dalla parte più di contenuto, che è quella sempre più importante per un'azienda come la RAI, e quindi i grandi autori, appunto, abbiamo sentito ieri Umberto Eco, Camilleri, Albertazzi, quindi allo stesso Sgarbi che ha avuto capacità, come dire, di spingere sempre più la RAI a fare meglio. Sì, ma nel concreto proposte di che genere che l'hanno colpita? Dice di contenuto, in che senso? No, di contenuto nel senso che ciascuno ha cercato di lanciare un'idea che fosse più forte delle altre. Quella che mi ha colpito maggiormente è appunto anche quella di Lucia Annunziata, che spinge la RAI, come dire, a ridurre la propria presenza nel campo televisivo tradizionale, affiancando dei canali web che potessero avere una verticale differente. Evidentemente sono tutte idee molto diverse e che servono appunto per stimolare la discussione, che non può esaurirsi in una sola giornata di lavori. Quindi, ecco, da questo quindi momento l'ha colpita le proposte di Eco, Annunziata e Sgarbi, questo mi sta dicendo. Assolutamente. Quelle di Eco e Annunziata, Eco e Sgarbi in che direzione andavano? Sgarbi evidentemente spingeva su quello che è il suo tema ricorrente, sul fatto che un'azienda come la RAI non possa relegare a pochi minuti nell'arco di una settimana, come dire, il tema dell'arte, che poi questo avvenga evidentemente soltanto occasionalmente ed incidentalmente attraverso programmi, come dire, noi di nicchia, e quindi il tentativo è sempre un po' lo stesso, fare una televisione di qualità che però non sia relegata ad orari impossibili. La richiesta di una trasformazione del palinsesto, insomma. Assolutamente. Credo che ripartire dal palinsesto. L'intrattenimento è stato poi interessante, appunto, la rincorsa un po' di tutti verso una modifica di quelle che sono le prime serate, che oggi appaiono ormai prime, seconde, terze serate, con degli standard e dei modelli che non sono internazionali, che sono troppo lunghi, quindi con anche un prodotto. Beh, che il prodotto internazionale di prima serata è di 50 minuti, noi siamo sulle 3 ore, quindi forse c'è un po' da lavorare. Sì. Ecco, la RAI deve comunque ritrovare naturalmente un'identità che la moltiplicazione dei canali rende più sbiadita. Ecco, il problema dell'identità qual è? Cioè, cos'è un servizio pubblico? È venuto fuori dalla discussione di ieri? Sì, nel senso che quello che è emerso con chiarezza è che il servizio pubblico, come dire, non può essere legato, come qualcuno aveva provato a fare, come dire, ad un bollino. Quindi il tentativo è stato proprio quello invece di andare a dimensioni opposte e raccontare quanto nella ricchezza della RAI, del suo palinsesto, la sua complessità, in realtà il tema del servizio pubblico entra a partire dal linguaggio. Se avevo capito, il bollino serviva per dire quali erano i soldi del canone, dove si spendevano i soldi del canone per poter difendere i palinsesti e non essere demagogici nella critica, se avevo capito bene. Il ragionamento è stato un po' invertito, nel senso che si ritiene non ci sia nessuna delle trasmissioni che non sia di servizio pubblico. Cioè tutto quello che va in onda è di servizio pubblico. Assolutamente, quindi il tentativo è di fare meglio in una logica maggiormente servizio pubblico tutto quello che facciamo. E quindi quello che state facendo è tutto servizio pubblico. Assolutamente. De Servo, senta, è uscita un'idea forte di che cosa però deve essere, perché se è tutto così non si capisce perché riformarlo, se va bene così. No, non va bene, diciamo che quello ha detto che è tutto di servizio pubblico quello che va in onda. No, noi, diciamo, abbiamo detto che quello male. Verso cui tendiamo, nel senso che la premessa è stata importante anche come affermazione di partenza, che la RAI, come dire, è un'azienda in cammino. L'abbiamo fatto in questo momento anche un po' demagogico della politica, abbiamo, come dire, dimostrato che l'azienda ha saputo, diciamo, risparmiare oltre 500 milioni negli ultimi 5 anni. Tagliare non sempre fa bene, perché non sono necessariamente sprechi. Ma quindi la scossa del presidente Renzi è positiva, è stata utile a smuovere? Forse sì, perché forse non ci sarebbe stata questa riunione. Sì, no, assolutamente. Diciamo che la scossa che arriva dal governo è stata una scossa forte, che ha impattato decisamente sulla RAI, ma che in realtà deve essere a questo punto necessariamente assecondata appunto da un cambiamento che sia anche interno. E quindi quello che è il nostro punto di partenza come dirigenti e come dipendenti di tutta la RAI è quello di non aver paura appunto di questa fase di cambiamento. Dottor De Servo, lei dice tutto quello che trasmettiamo è di servizio pubblico, però la gran maggioranza dei programmi che sono trasmessi sono fatti o in appalto o da collaboratori esterni. Ecco, questo è normale? No, diciamo che l'azienda negli ultimi anni ha un po', in parte smarrito un po' la sua originaria natura di azienda produttrice. In questo momento siamo rimasti legati ad un modello che lei, dottor Minoli, conosce piuttosto bene, e che è quello appunto di una factory che si è progressivamente impoverita. Diciamo che mancano, per parlare ai radioascoltatori e farci capire, che sono le persone che poi pagano il canone. Ecco, si è parlato molto di tecnologia, poco di prodotto e soprattutto di uomini di prodotto. Lei parla di factory, ma la factory deve contenere intelligenza e creatività. Se è vero, come abbiamo detto, che si produce quasi tutto fuori e quello che si produce dentro è fatto dai collaboratori, il problema esiste, il problema della qualità degli uomini del prodotto e anche del loro numero. Sì, ed è su questo che appunto stiamo cercando di lavorare. Il problema dell'azienda è proprio quello di riuscire ad attrarre al proprio interno queste figure che negli anni si sono accasate presso le grandi aziende di produzione internazionale, che sono in questo momento, come dire, leader soprattutto nella fase di intrattenimento sui format internazionali. Ma si sono accasate perché non sono state trattenute? Non sono state trattenute perché in quel momento storico non si è stati capaci di fare efficienza interna, e poi quella rincorsa un po' delle audience portava i direttori di rete, come dire, in qualche modo a garantirsi attraverso i risultati che quel determinato format avevano, ecco, avevano ottenuto. Quella è la caratteristica specifica della televisione commerciale, quella di, giustamente, dovendo avere una certezza di introiti pubblicitari, cercare prodotti di sicuro successo in partenza. Il servizio pubblico forse deve avere una vocazione diversa. Assolutamente. Ieri è stato ribadito anche in maniera con un'idea molto forte a parte di Corrado Formigli, che era ospite anche lui ieri, e che appunto si è spinto molto avanti chiedendo che la RAI potesse avere una rete che, totalmente priva appunto da vincoli commerciali, potesse avere il modo e il tempo di sperimentare dei programmi, dei formati, senza l'assillo del risultato, che è quello che, come conosciamo. Naturalmente, infatti le factory che c'erano però sono state chiuse, bisogna riaprirne delle altre. Assolutamente. Ecco, l'approdo finale di questa vostra riforma, di questo processo di autocoscienza, qual è? Diciamo, da questo momento si lavora in gruppi di lavoro, il lavoro è aperto non soltanto ai dirigenti ma anche a tutti i dipendenti e agli esterni che intendono fornire appunto delle idee o anche soltanto collaborazione. L'email che vorrei ricordare è adrai@adrai.org. Allora, se i nostri ascoltatori sono interessati possono scrivere idee e riflessioni, e l'approdo finale cosa sarà? Una proposta di riforma strutturata. È anche un momento importante in cui andremo a fare il fact-checking di tutto quello che sono le proposte che in questi giorni si discutono sui giornali o all'interno del Parlamento. Ma il fact-checking in che senso? Andremo quindi a valutare quelli che sono gli impatti organizzativi ed economici delle proposte che arrivano da più parti. Cioè, se è possibile o no, se corrisponde a una proposta. Se è possibile o no, che implicazioni comporterebbe. Certo, e quando sarà questo... Questo è nei primi di ottobre. Nei primi di ottobre. Tra 100 giorni. Benissimo, fra 100 giorni. In linea col governo che dà date su tutto, diamo la data di 100 giorni. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Voi, Mario Pietrangelo, c'eravate, ecco, che tutto quello che la RAI trasmette sia servizio pubblico, come dice Di Servo, forse i radioascoltatori e gli italiani che pagano il canone. Su questo non sono d'accordo. Beh, neanche io. Ci sono delle cose molto belle e altre cose che invece non vanno bene. Voi c'eravate, l'atmosfera com'era? Ma diciamo è stato utile perché hanno cominciato a raccontarsi qualcosa fuori da, anche un po' fuori dal loro mondo autoreferenziale. Secondo me non c'è ancora la sufficiente consapevolezza di che cosa sta succedendo fuori, cioè della competizione internazionale che ci riguarda da vicino e della diffusione della tecnologia che è esponenziale, sta cambiando il modo di guardare la televisione. Non è la fine della televisione, ci sarà più televisione, ma questo necessita un racconto diverso, uno storytelling completamente nuovo che per ora non si vede. Ci sarà, speriamo. Tu, Pietrangelo, che impressione hai avuto? Io ho avuto l'impressione che i propositi sono sempre ottimi, ma la sostanza poi non viene cambiata. Forse bisognerebbe semplicemente ribaltare tutto ciò che è nicchia, portarlo in primo piano, e tutto ciò che è in primo piano invece ridurlo in tante nicchie, perché quello che manca è proprio il racconto della bellezza, della potenza, dell'importanza. Ti cito, posso dire, c'è stata una battuta di Albertazzi fulminante. Ha detto: io la Rai la guardo solo di notte, perché è di notte che ci sono le cose è quello che migliori, dice Pietrangelo, no? Ed è insomma, quello che dice la riflessione sul palinsesto. Sesto è un punto di partenza, certamente, ma di partenza vero, perché di lì si può ricominciare a giustificare il fatto che si dice servizio pubblico. Quindi dire che tutto è servizio pubblico può darsi, ma insomma il palinsesto come minimo va rovesciato. Beh, per poterlo dire. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Scarpe dei calciatori, Pietrangelo? C'è sempre un momento che la malinconia arriva, però non è una malinconia di petto, è quasi una spoliazione, è proprio un'immagine perfino francescana, è potente, presente nella nostra storia. E solo un grande poeta come Edoardo Bennato poteva immaginare di prendere le cose più strampalate. Potrebbe essere scarpe nuove, potrebbe essere la mania del progresso, potrebbe essere la pazzia, la fantasia, e di chi difetta di questa fantasia e costruire il verso magnifico per questa giornata, ed è quella di poter dare le proprie scarpe nuove a un manichino e vederlo se ci raggiunge nel nostro cammino. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia. E proviamo ad andare nel nostro pentolone con Mario Secchi. Tasse, non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Allora, ti prende la voglia di pagarle o di non pagarle. E vabbè, cetto da qualunque, però noi dobbiamo occuparci invece di un provvedimento che è lì che stanno discutendo in commissione finanze alla Camera, è quello che riguarda il condono, diciamo la sanatoria sull'emersione dei capitali detenuti all'estero. E lì sta succedendo un po' di tutto. Ti dico solo che sono stati presentati 130 subemendamenti. Ti dico altro, stavo guardando il documento, i documenti di seduta, è una partitona che riguarda non solo in realtà i capitali detenuti all'estero, ma anche partite collegate di redditi che sono in Italia. Quindi di fatto ci sarà una sanatoria. Bisogna seguirla perché in questi casi, tu lo sai meglio di me, Giovanni, lo sanno i nostri ascoltatori e lo sa perfino Buttafuoco, che di queste cose lui non si occupa mai, lì potrebbero infilare qualsiasi tipo di provvedimento attraverso i vari subemendamenti. E quindi dobbiamo seguire, quindi perché abbiamo visto che subemendamenti, emendamenti. Un lavoretto in commissione stanno Senato, a fare. Ah, hai visto? No, poi non è mai di nessuno. No, no, infatti. Quindi è, bisogna seguirlo con attenzione. Bond, James Bond. Allora, ci occupiamo un po' di spie digitali a introduzione anche di una cosa che diremo dopo, che è legata secondo me alla sfida tecnologica e alla RAI. Allora, la CIA sta usando l'infrastruttura cloud di Amazon, cioè i suoi server, per svolgere il suo lavoro di analisi delle informazioni. In uno dei suoi rarissimi discorsi, uscite pubbliche, Doug Wolf, che è il responsabile tecnologico dell'agenzia spionistica americana, ha rivelato questa cosa. Sai quanto vale il contratto di Amazon? Quanto vale? $600 milioni. Accidenti. Parliamo. Tanto. Queste sono le partite vere che si giocano sulle oggi infrastrutture. Sulle infrastrutture. Salamino. Salamini da collezione, salamini da celebrazione, i filatelici, cioè che sono i collezionisti di sputi internazionali, non potranno essere aiutati in questa vicenda, bensì i numismatici, quelli che collezionano invece i soldini, e quindi vengono aperti i salvadanai e ne esce fuori una moneta celebrativa. Allora, noi siamo nell'epoca del caro leader. Oh, caro leader! Ecco. Oh, io ho scoperto una cosa, questo è l'inno nazionale nordcoreano e noi abbiamo pure il caro leader, perché Kim Jong-un ha 31 anni, in confronto a Matteo Renzi è vecchio. Allora, torniamo a noi. Il nostro caro leader, ecco, perfetto, il nostro caro leader deve celebrare pur qualcosa. Allora, l'Albania non la può fare la guerra in Albania, no. L'Abissinia non la può riconquistare. Sono pacifisti. Figurati la Somalia, tutta l'Africa orientale, pacifisti. L'Africa, niente, la Libia, sono non scout. Se ne parla. Cosa può celebrare? L'unica cosa veramente importante da celebrare, una cosa che obiettivamente è più importante essere presidente del Rotary che essere nel semestre europeo. E va bene, quindi celebrano questo dai. Semestre europeo con una moneta da 5 euro. Ora, io non ne capisco di economia, Mario ne capisce tantissimo, però mi ricordo che Tremonti diceva: se non volete fare troppi danni, fate la carta moneta da un euro. Guarda, e invece allora. No, e invece no, ha fatto questa da 5 euro. E la situazione qual è? Che a un certo punto noi di tutte queste monete ne faremo un gruzzoletto per raccontare definitivamente la nostra disfatta. Però su tutto resta la magnificenza del grande leader. Questo è l'inno nazionale coreano. Vabbè, che insomma ora sarà adottato da quelli italiani. Tu hai visto Fratelli d'Italia? Sì. Vai con la TV digitale. Vai, vai, vai. Questo è un pezzo ormai che ha fatto storia, erano i Buggles se non sbaglio, la regia fanno sì, l'hai beccata, sì, l'ho bravo. Beccata. Per introdurre cosa? Che la tecnologia cambia l'ambiente, non è detto che però le cose accadano nella maniera prevista, per esempio si diceva il video ucciderà la radio, no, la radio ha avuto un grande successo perché è stata capace di rinnovarsi. E infatti in radio ci siamo noi. E infatti in radio ci siamo noi, vabbè. Vabbè, lasciamo vabbè stare. La mia nonna diceva: chi si loda si broda. Esatto. Però invece tutto ciò che avete visto, la CIA adotta il cloud e il digitale, la realtà in cui ci muoviamo è tutta digitale perché il nostro mondo è connesso. E allora è interessante seguire le cose delle aziende, in particolare del titano Google, perché oggi dovrebbe presentare una nuova versione di Android e soprattutto quello che si chiama tecnicamente il set-top box per la televisione, cioè lancerà la sfida ad Amazon e a Apple TV e a Netflix sulla programmazione. Tutto questo non ci riguarda? No, come ci no? Riguarda, certo. Perché ci arriva riguarda anche qua. Però questo il problema è il punto. Sono sempre chi fa i prodotti. Esatto, c'è bisogno di contenuti. Nel marzo del 2009 Michael Jackson si preparava al suo ultimo tour all'Arena 02 di Londra. London welcomes the King of Pop, Mr. Michael Jackson. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love I can feel. And I know, yes, for sure, it is real. And it feels as though I've seen your face a thousand times. And you Oggi avete capito, dopo il giornale radio, a cura di Marina Milone, racconteremo la storia del re del pop, Salamino. Salamino all'estero! Allora, l'Italia ha chiesto l'Alto Commissariato per gli Affari Esteri e il nome di Federica Mogherini è l'unico in campo. Così ha parlato Matteo Renzi, il caro leader. Ogni volta che dico caro leader parte questa musica, che è fantastico. Ma è strano, eh? Sì, beh, perché... sei messo d'accordo con la regia? Sì. No, perché quello, il rottamatore con gli occhi a mandorla, è più giovane ancora. Quindi, allora, dicevo che... il nome di Federica Mogherini è l'unico in campo. Allora, presentando la candidatura dell'attuale ministro degli esteri, si capisce che sono finiti i tempi di Emma Bonino, finitissimi quelli di Susanna Agnelli, e Mogherini va a prendere il posto pure a un autorevole Massimo D'Alema e va a rappresentare i tempi della Gens 9 in Europa. E non c'è nome migliore, perché Mogherini ha un curriculum straordinario. Allora, sentiamo. Ve lo dico io perché proprio ho avuto modo di verificare. Allora, conosce a memoria e ripeta alla perfezione il Codex Serafinianum. Poi conosce alla perfezione tutti i nomi delle Winx. E questo, lei di suo somiglia a Candy Candy, a differenza di D'Alema non ha tra i denti i polpacci di Alan Friedman. Ha indossato la spilla del Partito Democratico in America. Poi ha un grande merito, va a liberare finalmente il posto della Farnesina perché è urgente mettere una persona più competente, però ha scelto un inno che va di pari passo con quello nordcoreano, e il suo in Europa sarà questo. Cos'era questo? Non me la ricordo. No, ma è cattivissimo proprio stamattina. Beh, però sì. Secondo me la Farnesina va liberata in fretta. D'accordo. Ah, siamo d'accordo? Sì, no? Sì, abbastanza. Sì. Abbiamo anche un candidato, anzi una candidata. Una candidata era qui l'altro giorno. Esatto, se non sai, mi ricordo tipo male. Roberta Pinotti. Ah, qualcosa del genere. Esatto, a noi piace quella. Prima di chiudere, Orazio da Firenze ci scrive una cosa molto cattiva. Però la leggiamo. L'unica soluzione per la RAI, soluzione greca, occupazione con esercito e tutti a casa. Il resto è fuffa, naturalmente. Non siamo d'accordo, ma siamo democratici e diamo l'opinione di tutti. Sei tu democratico. E così, giusto con Orazio, canteremo in RAI con l'esercito e il Carmen seculare, l'inno a Roma, e si toglie finalmente Fratelli d'Italia. Grazie, pubblicità.